GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Circolazione ferroviaria sospesa ieri tra Trieste e Monfalcone per un incendio a fuoco 6 ettari di bosco. L'analisi del voto in regione, bilancio positivo nel centrodestra, la Lega tiene progressisti divisi, tracollo dei 5 Stelle. Chiusura congelata al prosciuttificio ex principe di San Dorligo, per salvare 49 posti si cerca un nuovo acquirente. Il contestato ampliamento Cronospan vicino all'autorizzazione, il comune di San Vito e ambientalisti contrari. Tecnologie digitali per le industrie del futuro ad Amaro, nel Carnia Industrial Park, uno dei 4 laboratori regionali. A Gorizia, rinvio al processo per la morte di Stefano Borges, il 13enne caduto in un pozzo, rifiutata la proposta di risarcimento. Bullismo a scuola, già una dozzina i casi nella provincia di Pordenone, tavolo del prefetto per far emergere il sommerso. Basket a Cividale, non riesce l'allungo della Gesteco in gara 2 nelle finali playoff di Serie B, ora la serie si sposta a Vigevano. 7:19 minuti di mercoledì 15 giugno, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature a Trieste 20 gradi e mezzo, mare calmo, a Gorizia e Udine 17 gradi e mezzo, 19,5 decimi a Pordenone, a Tolmezzo 17 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 13 gradi, a Tarvisio 9,5, a Sapienza Pada 12, su Monte Zoncolano e Monte Lussari 10 gradi, a Lignano 22 gradi e mezzo, a Grado 20, temperatura del mare nelle due località 24 gradi e mezzo. Le previsioni di primo mattino, nuvolosità variabile su tutta la regione, sereno solo sulla costa, in giornata il cielo tenderà ad essere sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, in pianura farà caldo di pomeriggio, sulla costa la brezza manterrà invece l'aria più fresca. Sui monti dal pomeriggio variabilità con la possibilità di qualche rovescio o isolato temporale, più probabili verso il cadore. I treni hanno ripreso a circolare solo alle 21:43 minuti di ieri sera, dopo che alle 17 un incendio aveva costretto a sospendere la circolazione ferroviaria sulla tratta Trieste-Monfalcone. L'incendio ora è estinto e sotto controllo, è partito da delle sterpaglie nei pressi del ponte ferroviario in via Locovaz, zona Libertà, a Monfalcone. Sono andati a fuoco 6 ettari di bosco, è intervenuto anche l'elicottero della Protezione Civile e 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre alle squadre del Corpo Forestale Regionale e ai volontari dell'antincendio boschivo. Questi ultimi sono ancora sul posto per tenere d'occhio i punti dove il bosco fuma ancora. Chiusa l'uscita autostradale per un periodo, ieri i veicoli provenienti da Trieste erano stati costretti a proseguire oppure dirottati sulle vie Terza Armata e Timavo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, forse sono state le scintille provocate dal passaggio dei treni a scatenare l'incendio. Solo 24 ore prima era scoppiato un altro incendio di fronte a questo, ai piedi della Rocca di Monfalcone, in prossimità della Galleria Rifugio. E ora il voto amministrativo di domenica scorsa, valutazioni diverse dei due schieramenti, centrodestra soddisfatto per la larga affermazione di Anna Maria Cisinte, fiducioso in vista dei ballottaggi, giudizio positivo anche dal presidente Fedriga, che ha elogiato il lavoro di squadra della coalizione. Fratelli d'Italia cresce, Forza Italia in ottima salute, la Lega tiene, il centrodestra è soddisfatto del risultato delle amministrative, a partire dal presidente della regione Fedriga, che cita l'exploit di Cisinta Monfalcone, ma anche la conquista di Lignano e Tolmezzo o di Cervignano, storicamente in mano al centrosinistra. Adesso però la sfida arriva, perché governare è molto più difficile che fare una campagna elettorale. Quanto a Gorizia, dice Fedriga, ora bisogna motivare gli elettori affinché tornino a votare al ballottaggio per Ziberna, raccontando la verità. La politica deve superare la logica delle promesse elettorali e raccontare la verità delle cose che si sono fatte, di quelle che non si è riuscita a fare, delle difficoltà che si sono superate. Chi fa politica è una persona normale che fa degli errori, che supera delle difficoltà e che delle volte raggiunge dei successi, ma non sempre. Qui la Lega ha tenuto, non così in altre regioni, ma il presidente non vuol parlare di effetto Fedriga. Abbiamo scelto buoni candidati che la gente ha apprezzato e i candidati uscenti sono stati riconfermati per la buona amministrazione. Io non voglio mai confondere le tornate elettorali, comunali, regionali e politiche. I parlamentari Dalmas e Savino citano con soddisfazione i numeri a due cifre ottenuti in questa tornata da Forza Italia, grazie, spiega Dalmas, alla leale collaborazione con Fedriga e alla gestione di problemi complessi come la pandemia. Il centrodestra senza Forza Italia, concludono, non esiste. Chi pensa al contrario coltiva fantasie. Soddisfatto anche il segretario regionale di Fratelli d'Italia Rizzetto. Siamo cresciuti molto rispetto a 5 anni fa, dice, ma sono certo che alle prossime regionali faremo ancora meglio, allineandoci al dato nazionale. Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. 3 ballottaggi ancora da disputare, ma i primi bilanci nel centro-sinistra si stanno già tirando e vanno tutti in direzione dell'unità di intenti per battere le destre a partire dalle regionali dell'anno prossimo. Per i 5 Stelle, intanto, l'analisi di una pesante sconfitta. Quando i progressisti si dividono, perdono senza scampo, in maniera dolorosa. Cervignano è l'esempio, storica Roccaforte, dove si è andati con 2 candidati e persa per 1 pugno di voti. Insieme però c'è la consapevolezza che i margini per costruire il campo largo, di cui si parla anche a livello nazionale, ci sono. Lo spiega Diego Moretti, capogruppo PD in Consiglio regionale. Il campo largo è fondamentale. È un campo largo che deve abbracciare tutti, da chi è più centrista a chi è più a sinistra. Certamente questo è il segnale che ci hanno dato anche le elezioni amministrative. E in questo quadro le forze del Movimento Civico sono decise a giocare il loro ruolo. Il consigliere regionale dei cittadini, Gabriele Centis. Presenze civiche che rafforzano un quadro politico e che danno anche una governabilità, perché il civismo a livello locale è la chiara rappresentazione dei cittadini, delle tematiche locali. Anche a sinistra, richiamare la gente alle urne è una delle priorità. Se ne fa interprete il consigliere di Open Sinistra FVG, Furio Onsel. Il vero problema, no, è come è possibile che in città problematiche soltanto il 50% della popolazione vada a votare. Molte persone non hanno più fiducia. Bisogna andare a capire, proprio perché tante di queste città hanno problemi estremamente seri. Se le altre forze progressiste hanno sostanzialmente tenuto, con l'eccezione del PD a Monfalcone che ha dimezzato i consensi, chi rischia concretamente di vedersi ridotto all'irrilevanza è il Movimento 5 Stelle. Voti ridotti a 1/4 a Gorizia e dal 12 all'1,8% a Monfalcone. Occorre un rapido lavoro di riorganizzazione, spiega il consigliere regionale Andrea Ussai. Credo che, come diceva il presidente Conte, continuiamo a pagare l'assenza di strutture organizzative del Movimento 5 Stelle nei territori. Su questo c'è un progetto di rilancio del presidente Conte e speriamo che vengano nominati quanto prima i referenti territoriali e regionali, proprio per dare nuovo slancio al movimento. Andrea Bardani, GTGR Friuli Venezia Giulia. E il parlamentare regionale Luca Sud è stato nominato coordinatore dei 5 Stelle per il Friuli Venezia Giulia dal presidente del Movimento Giuseppe Conte, che proprio ieri sera ha diffuso la lista dei coordinatori regionali, annunciando per l'inizio della prossima settimana la nomina dei provinciali. Lavoro, spiragli di ottimismo per la vertenza dello storico prosciuttificio ex principe di San Dorligo della Valle, la cui proprietà il fondo WRM aveva dichiarato di voler chiudere, perché questa era la motivazione. Il progetto di rivalutazione e sviluppo del sito non era più attuabile. 49 i posti di lavoro a rischio. La decisione di chiudere lo stabilimento è stata congelata nel corso di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra sindacati, azienda e regione. La proprietà si è impegnata a fare una verifica sulle soluzioni alternative alla cassa straordinaria già firmata per il reparto Würstel e di preparare una relazione tecnica chiesta dall'assessore regionale all'attività produttive Bini sulle potenzialità dello stabilimento e sui prodotti, in particolare sulla loro certificazione per un'eventuale esportazione negli Stati Uniti. Obiettivo quello di trovare aziende interessate ad acquisire il prosciuttificio. A breve ci saranno incontri con Confindustria, FVG e con il Ministero. Sul fronte del lavoro, ha aggiunto l'assessora regionale Alessia Rosolen, accompagneremo le verifiche con i competenti uffici nazionali sul miglior percorso conservativo di sostegno al reddito che favorisca la continuità del sito giuliano. La dignità del lavoro, salario minimo, crisi aziendali, mancanza di personale, rappresentanza e altre sfide del presente. Questo il tema dell'incontro pubblico organizzato dal PD di Trieste al caffè Eppinger di Via Dante alle 17.30. Intervengono Michele Piga, CGL, Luciano Bordin della CISL e Matteo Zorn della UIL, con il capogruppo PD in Consiglio Comunale Giovanni Barbo e la segretaria provinciale Caterina Conti. Tra i temi le crisi aziendali in corso e quelle a rischio, dalla Flex alla Principe alla Varsila. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del PD di Trieste. Laboratori potenziati in vista della ristrutturazione e ampliamento del parco tecnologico di Amaro in Carnia, tutte soluzioni destinate alle imprese interessate ad innovare i prodotti. Sistemi automatici per il controllo visivo del prodotto, sensori e tecnologie di trasmissione dati per il monitoraggio delle produzioni e la manutenzione. Sono le principali tecnologie e le strumentazioni presenti nel laboratorio Internet of Things del Digital Innovation Hub inaugurato nella sede di Amaro della Carnia Industrial Park. Sono esempi di tecnologie Industria 4.0, utili per la trasformazione digitale delle imprese e disponibili per imprenditori, tecnici, professionisti e studenti. Ne sono stati creati 4 sul territorio regionale: Amaro, San Vito al Tagliamento, Udine e Trieste, aperti alle imprese che vogliono conoscere e testare le soluzioni tecnologiche innovative prima di applicarle in azienda. L'obiettivo è di ampliare l'offerta complessiva di tecnologie 4.0 a disposizione degli imprenditori regionali. La presenza del dimostratore all'interno dell'area della Carnia Industrial Park può favorire infatti l'avvio di progetti di digitalizzazione delle imprese del territorio. L'obiettivo nei prossimi mesi sarà di rendere il dimostratore sempre più utilizzato dalle aziende e aumentare il numero dei casi d'uso. Roberto Siagri, il presidente della Carnia Industrial Park. Serve alle imprese per poter ottenere dati dalle loro macchine, ma non solo. Vorremmo anche presentare il master plan che rivitalizza un po' tutta l'area industriale di Amaro e soprattutto dà una nuova vita al centro di innovazione tecnologica, perché vogliamo che diventi un grande polo di attrazione di talenti e, insomma, nuova vita a questo posto. Amaro, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Prosegue l'iter per il potenziamento di Cronospan, l'azienda che nella destra Tagliamento produce pannelli di legno riciclato. Resta la contrarietà di Comune e comitati ambientalisti. Nuovo impianto Cronospan di San Vito al Tagliamento, porte aperte all'autorizzazione. L'ultimo incontro al PAUR, organismo della regione delegato alla concessione dell'autorizzazione, non ha portato novità di rilievo, quindi l'iter va avanti e la concessione potrebbe essere questione di giorni o settimane. Solamente il comune di San Vito, fra i 20 enti designati al parere ambientale, è contrario al progetto per la produzione di pannelli da legno riciclato che dovrebbe sorgere accanto all'impianto che attualmente rifinisce pannelli già pronti che arrivano dall'estero. La questione in piedi da più di un anno, nuovo progetto, investimenti, prospettiva posti di lavoro da una parte, ma anche timore per l'impatto ambientale, sia per l'emissione di una nuova caldaia che dovrebbe bruciare legno, sia per un traffico merci che si prevede dovrebbe portare a San Vito 600.000 tonnellate di rifiuto legnoso l'anno. Dalla parte del no, come detto, il comune di San Vito e il comitato ABC, Ambiente Bene per la Comunità, che ha raccolto 7.000 firme contrarie e presentato numerose perplessità tecniche sul progetto. La battaglia è condotta a suon di studi e documenti. Quello commissionato dal Comune di San Vito a esperti del settore ha messo in rilievo la criticità ambientale del nuovo impianto. Via libera sia dall'azienda sanitaria Friuli Orientale che dallo studio di Confindustria. Entrambi però prescrivono monitoraggi periodici. Il Comune di San Vito al Tagliamento ha presentato già ricorso al TAR. Giuliano Sadar, TGR Friuli Venezia Giulia. Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali al piano regionale della mobilità ciclistica, che ora passerà in commissione per tornare in giunta ed essere quindi inviato al Ministero. Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione a dotarsene. Si tratta di un piano di prospettiva decennale che prevede, fra le azioni prioritarie, il completamento delle reti ciclabili del polo intermodale di Trieste Airport e del nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e dei comuni del COSEF. È prevista anche una pianificazione intercomunale tra Sappada, Sauris, Prato Carnico, Forni Avolti per il progetto In Quota. Al Tribunale di Gorizia si è conclusa con un rinvio l'udienza preliminare del processo per la morte di Stefano Borges, il ragazzo tredicenne caduto in un pozzo nell'estate del 2020 mentre partecipava ad un centro estivo parrocchiale nel parco della Villa Coronini. Rinvio al 6 luglio a causa di impegni inderogabili del giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante al lavoro nelle procedure post-elettorali. Il processo per la morte di Stefano Borghese, caduto in un pozzo il 22 luglio 2020 a soli 13 anni mentre partecipava ad una gara di orienteering nel parco della Villa Coronini, vede 12 imputati per omicidio colposo, tra cui il sindaco di Gorizia Ziberna, presidente di diritto della Fondazione Coronini, l'assessore regionale alla cultura Gibelli, tutti i membri del curatorio della fondazione e due responsabili della sicurezza e valutazione rischi. I fattori nodali del processo si concentrano sulle cause del cedimento della copertura che richiudeva la bocca del pozzo, copertura che ha ceduto quando il piccolo Stefano è salito su di essa nel percorso di gara. Gli elementi nuovi emersi dagli avvocati presenti all'udienza riguardano invece le trattative tra la famiglia del giovane e l'assicurazione della fondazione sul tema dei risarcimenti. Una prima proposta non è stata giudicata congrua dalla famiglia e le parti rimangono ancora distanti. Se non si dovesse giungere ad un accordo prima della prossima udienza del 6 luglio, questo inevitabilmente porterebbe a ridurre gli spazi percorribili verso i riti alternativi al giudizio. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono una dozzina i casi di bullismo che si sono verificati quest'anno nelle scuole della provincia di Pordenone, ma molti sono i casi sommersi. Da qui la decisione del prefetto di convocare un tavolo che ha coinvolto anche gli studenti per monitorare un fenomeno in crescita. Prima riunione del tavolo antibullismo in prefettura a Pordenone, convocato dal prefetto Domenico Lione, ha coinvolto tutti i soggetti del territorio, dalle scuole alla regione, dai comuni alle forze dell'ordine, ma soprattutto gli studenti presenti con la consulta provinciale che ha presentato un sondaggio sul tema. Obiettivo dell'incontro: coordinare le iniziative esistenti per far emergere gli episodi sommersi anche in forma embrionale, prima quindi di un intervento delle forze dell'ordine e avviare un monitoraggio del fenomeno. Per farlo saranno calendarizzate assemblee nelle scuole, la prima a settembre alla ripartenza dell'anno scolastico. Saranno coinvolti referenti antibullismo negli istituti scolastici, figure di riferimento per raccogliere segnalazioni e malesseri e ampliati tavoli territoriali sul tema, con un maggiore coinvolgimento anche delle famiglie. Uno studente su tre avrebbe subito o assistito ad almeno un atto di bullismo, che va dal bullismo vero e proprio all'offesa. Sono tante le forme di disagio nascoste esplose con la pandemia, episodi sommersi che i ragazzi non raccontano, dal body shaming alle insidie del cyberbullismo, in una generale difficoltà a relazionarsi, a volte anche solo a uscire dalla propria camera. È emersa una tendenza, ha spiegato il prefetto, che ci dice che il fenomeno è sentito tra i ragazzi ed è necessario un lavoro sinergico tra tutti i soggetti. A novembre il prossimo incontro in prefettura per fare il punto. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Mense scolastiche, rifiuti pericolosi, aree ex Bertoli nelle ultime delibere della giunta comunale di Udine, pronta anche all'acquisto dell'ex cinema Odeon, 640.000 euro per l'edificio di Via Gorghi, progettato da Ettore Gilberti e destinato ad ospitare anche un museo dedicato ai fratelli Basaldella. Il servizio. Al via Udine fino al 15 agosto le iscrizioni per la mensa scolastica dell'anno 2022-2023. Lo ha deciso la giunta comunale, che pubblicherà l'avviso sul sito internet del comune nella sezione dedicata al servizio di ristorazione scolastica. Oltre agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie con tempo pieno, sul sito si troverà anche l'elenco degli aventi diritto. Ci sono alcune novità rivolte agli alunni, insegnanti ed educatori con patologie, allergie o intolleranza, per vegetariani e vegani. Ci sarà la possibilità di accedere a menu ad hoc, così come per motivi etici e religiosi. Tra gli altri provvedimenti della giunta, anche la necessità di attingere al fondo di riserva per una somma pari a 100.000 euro per far fronte alla necessità di provvedere allo sgombero di rifiuti pericolosi presso immobili privati a seguito di un'ordinanza del sindaco emanata su segnalazione della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il Comune quindi provvederà a mappare le zone e ad intervenire a proprie spese per la messa in sicurezza dei luoghi, per poi rivalersi sui titolari degli immobili. Intanto nuovo passo avanti, sempre in giunta, sull'ex acciaieria Bertoli. Approvata la variante al piano regolatore che riguarda l'area e entro fine mese andrà in consiglio comunale. Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. I dati del bollettino Covid: ieri ha registrato 864 casi, 300 in più rispetto a quelli registrati martedì scorso. Rimangono 3 le persone in terapia intensiva, scende di un'unità, arrivando a quota 90 il numero di ricoverati negli altri reparti con coronavirus, registrati 4 nuovi decessi. E ieri giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall'OMS per far crescere la consapevolezza su un gesto di solidarietà quanto mai necessario in periodo di pandemia. Tra i numerosi riflessi negativi del Covid c'è anche quello della flessione delle donazioni di sangue a causa dei contagi tra i donatori. Da qui l'iniziativa dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, di un open day all'ospedale maggiore di Trieste. Massimo Laraia, direttore centro medicina trasfusionale a Sugi. È importante per le persone che per qualche motivo non sono venute a donare o che hanno ritardato la prima donazione sensibilizzarli sul fatto che l'età media aumenta, i donatori, perché la fascia di donatori è tra i 18 e i 65, diminuisce, i pazienti paradossalmente aumentano, per cui nonostante che il Friuli sia una regione virtuosa e non c'è un allarme donazioni, guardando in prospettiva per il futuro, questa attività benemerita sarà importante come e più che in passato. Donatori aspiranti sono stati accompagnati nel laboratorio di lavorazione e assegnazione emocomponenti per conoscere più da vicino l'utilizzo ottenuto dalle donazioni. Da ricordare la mancanza di rischio nella donazione in corrispondenza o meno di situazione pandemica. Non c'è nessun rischio, certo ci sono persone che hanno paura degli aghi, sono paure che si possono superare, io l'ho superata per esempio. Fondate sulla gratuità le motivazioni di chi consente di assicurare la terapia trasfusionale negli ospedali. Perché lei dona sangue? Perché mi fa sentire bene, poi, è una bella sensazione. Perché può aiutare le altre persone e a me non costa niente. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Più di 62.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia si sono iscritti alle università della terza età nel triennio precedente alla pandemia, quindi dal 2017 al 2019. Dopo le cose sono cambiate, ma i docenti si sono organizzati per portare avanti la didattica online anche tutti i giorni. È il caso dell'Università della Terza Età di Trieste, di Via del Lazzaretto Vecchio, che conta quasi 2.000 iscritti, se si contano anche quelli delle sedi di Muggia, Eduino, Aurisina. Quest'anno festeggia il 40° dalla fondazione e l'Università della Terza Età riceverà per questo il sigillo 300° della città alle 11 nella sala del Consiglio Comunale. Facciamo il punto su questi 40 anni con il presidente Lino Schepis. La storia si può dire che nasce nel 1982, perché siamo stati costituiti dai Lions dell'epoca che per festeggiare i loro 25 anni della loro costituzione pensarono di fondare un'università della terza età. Ci siamo occupati di voi come università della terza età in pandemia, perché sì, un anno esatto. Fa c'era il problema, no, dimezzamento quasi degli iscritti. Comunque voi siete riusciti a fare le lezioni online. A che punto siamo oggi? Allora, quando ci fu l'intervista, mi ricordo, un'intervista che poi passò anche a livello nazionale, eravamo completamente chiusi e abbiamo fatto un anno di attività a distanza. L'anno corrente è stato un anno completo in cui abbiamo messo in pista, diciamo, un programma completo in presenza, a cui abbiamo aggiunto anche però un programma giornaliero di attività a distanza. E questo perché proprio nel 40° anno della nostra Costituzione avevamo pensato che fosse una bella cosa arrivare anche nelle case di chi non poteva venire da noi per problemi di grave handicap fisico o cose del genere, no? Avete un'offerta didattica sempre amplissima, ci sono decine di corsi. Abbiamo un'offerta didattica cospicua che è basata su 12 indirizzi, 72 materie e oltre 350 corsi, indubbiamente, che spaziano praticamente in tutti i campi, in tutte le materie artistiche, culturali, in moltissime lingue, in molti laboratori. Insomma, dà l'idea di essere molto impegnativo, ecco. Qual è il grado di impegno che si richiede agli anziani che vi frequentano? Allora, agli anziani che ci frequentano nessun impegno, nel senso che uno viene quando vuole, ci sta il tempo che vuole. Noi non rilasciamo diplomi e quindi uno fa esattamente quello che gli piace. L'impegno invece è per chi organizza, perché siamo altrettanto anziani e tutti volontari. Alzheimer a Trieste, l'associazione The Banfield prosegue le attività gratuite a cadenza mensile per accompagnare chi assiste persone con Alzheimer, demenza o decadimento cognitivo. Oggi appuntamento alle 17.30 in Casa Viola, in via Filzi, si parla di scrittura e vita, elaborare la narrazione di sé. Se hai cara la pelle, fatti visitare gratuitamente per prevenire i tumori cutanei. E questa è l'iniziativa della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Trieste in collaborazione con la dermatologia di Asugi. Sono 50 le visite disponibili, ci si può prenotare a partire da oggi e inizieranno il 27 giugno per terminare il 1 luglio all'Ospedale Maggiore. Visite dermatologiche gratis anche ai partecipanti dell'evento sulla spiaggia di Grado 130 all'ingresso principale della spiaggia GIT, da oggi fino a dopodomani dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 17. E oggi seconda giornata del Festival di giornalismo a Ronchi dei Legionari, le ali della notizia. Vediamo alcuni appuntamenti. Si comincia alle 17 nel giardino di Piazzetta dell'Emigrante con il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, che presenta il suo libro Boia chi molla. Poi questa sera alle 19 in Palatenda il panel 1992, l'anno in cui tutto cambiò. Capaci e Via D'Amelio, stragi annunciate. Intervengono Giuseppe Ayala, ex magistrato ed ex parlamentare, Rosi Bindi, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Attilio Bolzoni, giornalista Il Domani e scrittore, Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica, introduce e modera Silvia Geralucci, giornalista di Radio 24. Nell'ambito della manifestazione Approdi Futuri, il seminario sull'intelligenza artificiale a cura di un gruppo di ricerca SISA nella sede di Via Bonomea Trieste inizia alle 16.30 con esempi concreti di innovazione sostenibile nelle industrie ma anche in ambito medico ed ambientale. Racconti e favole in musica al Conservatorio di Trieste con il pianista Roberto Turrin questa sera alle 20.30, un programma ispirato all'intreccio tra mistero, immaginazione e un mondo fantastico, un viaggio tra i compositori del XX secolo, fra cui citiamo Prokofiev. E dureranno ancora 2 settimane le riprese del film La fortuna di Laura di Alessandro Angelini con protagonisti Lucrezia Lante della Rovere e Andrea Pennacchi. Trieste si conferma così una delle location più gettonate per le produzioni cinematografiche. È la storia di Cenerentola al contrario. Un'arredatrice di successo interpretata da Lucrezia Lante della Rovere perde la casa, la reputazione e il lavoro, ma scopre l'amore perché si innamora di un infermiere, l'attore Andrea Pennacchi. E questa è La fortuna di Laura, il film che Alessandro Angelini sta girando a Trieste dal 28 maggio. Una commedia scoppiettante, a lieto fine per usare le parole del regista, con sullo sfondo l'esplosione di luce e la bellezza del territorio. Trieste è una città bellissima, è una città che in fondo all'inquadratura ti regala sempre il mare, quindi è come se volesse dirti: anche se ci sono dei problemi, in fondo c'è la soluzione, basta andare avanti e c'è qualcosa di luminoso, di gioioso, di libero. E in questo senso è una città che regala molto. La fotografia è luminosa, gli edifici sono storici, importanti, bianchi, quindi tutto tende verso il meglio. Il film è prodotto dalla Pepito in collaborazione con Rai Fiction e con il supporto della Film Commission, che da gennaio fa parte di Promo Turismo FVG e da una nuova presidente, Chiara Valenti Omero. La fortuna di Laura sarà trasmesso dalla Rai tra dicembre e gennaio ed è il secondo film girato in regione sui 4 della collana, purché finisca finisca bene. Leonardo Ferrara di Rai Fiction. Trieste, che è stata anche la location della Porta Rossa, quindi una città meravigliosa, piena di spunti creativi per i nostri autori, per il nostro regista che la racconta in maniera molto, con grande sensibilità e esaltandone la bellezza. Quindi siamo molto felici di essere qui, di avere questa ospitalità. Trieste, Eva Ciucci, TGR, Friuli Venezia Giulia. No Borders Music Festival ha annunciato gli ultimi nomi che completano la 27esima edizione in programma al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Mannarino, erede della grande tradizione di cantautori come Conte e De André, suonerà il 30 luglio ai Laghi di Fusine, mentre a Sella Nevea sull'altipiano del Montasio il 7 agosto saliranno sul palco Asaf Avidan, Daniele Silvestri e Casa di Lego. Ora allo sport, cominciamo con il basket. Nella finale playoff di B, Gesteco Cividale battuta in gara 2 da Vigevano per 69-67 davanti al pubblico di casa. In gara 1 i friulani avevano vinto 65-52. Ora due partite in casa della squadra lombarda, si comincia venerdì, gara 4 si disputerà domenica. E per il ciclismo parte da Nova Gorica con arrivo a Postumia il Giro di Slovenia alle 12.45. La partenza di Tadej Pogačar e di Matej Mohoric e degli altri corridori che faranno nuovamente ingresso in Italia. I ciclisti percorreranno infatti le strade di Gorizia, poi attraverso Oslavia e San Floriano del Collio torneranno di nuovo in Slovenia. Sono in arrivo 22 squadre, circa 150 ciclisti da tutti i continenti. Il percorso della gara è diviso in 5 tappe per circa 800 km di corsa con traguardo finale a Novo Mesto. Ai campionati nazionali a squadre categoria ragazzi del Friuli Venezia Giulia, domenica la piscina Bianchi di Trieste, trionfo della squadra femminile trascinata dalla giovanissima Ilaria Marsi, classe 2009, con 4 vittorie in 4 gare, e per la squadra maschile guidata da Simone Ferrandino, che pure vince 4 gare su 4 disputate. 7.49, siamo alla rassegna stampa, partiamo dal piccolo di Trieste che apre con uno sguardo al futuro. Trieste si conferma capitale delle nuove reti digitali, questo è il titolo principale in merito al convegno in Porto Vecchio con premi Nobel e guru high tech con 1000 esperti da 70 paesi. La fotonotizia al centro pagina per la polemica al Pedocin, la spiaggia che divide maschi e femmine con un muro. Il comune ha introdotto nuove regole per i minorenni, ma i bagnanti sono divisi. Gli under 14 devono essere accompagnati da un genitore per entrare nello stabilimento. Per chi ha dai 14 ai 18 anni serve un modulo firmato dai genitori. I richiami di cronaca in prima pagina: in Porto Vecchio l'area archeologica da valorizzare. Troviamo la notizia come capocronaca nelle pagine interne. Trovati davanti al magazzino 26 i resti dell'antico molo, la soprintendente Bonomi dice che l'area va protetta fino alla fine del cantiere e poi deve essere resa visibile ai cittadini e anche ai turisti. Gli esperti dell'Istituto Sant'Anna bocciano la nostra sanità regionale, l'attacco delle opposizioni dopo la pubblicazione del report. Riccardi replica: i problemi ci sono, ma li risolveremo. Federica subito al lavoro per la lista del presidente, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine nella fotonotizia ai due sfidanti per il ballottaggio di Codroipo e un'intervista ad Andrea Balducci, il sindaco del Ribaltone, si legge a Cervignano. Di spalla la cronaca, 10 indagati dopo la chiusura delle indagini sulle mense scolastiche a Udine che avevano portato all'interruzione del contratto con la ditta EP sotto l'addio al dottor Romano, medico consigliere, fu direttore delle terme di Lignano. Allo stringer, rubato l'archivio informatico con i dati di profe e allievi. A Buia, la presidente della Proloco ferita durante l'aggressione, domenica è stata derubata dell'incasso della sagra mentre rientrava a casa. In taglio basso, il laboratorio di Amaro che aiuta le aziende a diventare digitali. Nella cronaca cittadina, le mense scolastiche a Udine e le decisioni della giunta. Sul Gazzettino in apertura il voto, in Friuli sconfitto chi ha corso da solo. La sfida ora sarà riportare gli elettori al ballottaggio. In taglio basso il Museo dei Basaldella, nell'ex cinema Odeon, a fianco il basket con il titolo Bonicioli in bilico, si legge Pedone, voglio la 1. In taglio alto l'Udinese ha scelto ancora l'Austria dall'11 luglio, ritiro a Linz. Il piccolo di Gorizia apre con la politica gli scenari possibili del ballottaggio per l'elezione del sindaco a Gorizia, caccia agli apparentamenti dubbi di Fasiolo su alleanze con Devetag e Zotti, Ziberna invece non cerca sponde. Richiami di cronaca in prima, Lucinico raccoglie 600 firme per il medico di famiglia. E poi nella squadra nazionale di calcio delle Poste c'è anche un portalettere di Monfalcone. Infine Carso in fiamme nel Monfalcone. Stop a treni e auto. La sindaca Cisint, protagonista del capocronaca di Monfalcone, in giunta: voglio lealtà e competenza, dice il virgolettato, le preferenze non solo. Il sindaco traccia l'identikit del nuovo esecutivo, ma non fa trapelare alcun nome dopo la straripante vittoria, ha staccato per riposare e riflettere. Sul Gazzettino di Pordenone, in apertura il voto, in taglio basso il risarcimento da 7.000 euro che il Ministero dell'Interno deve al ristoratore Ferdinando Polegato, noto per le sue esternazioni estreme, che aveva diffuso un video con parole irriverenti verso il presidente Mattarella e il premier Draghi, sproporzionati 60 giorni di chiusura imposti al suo locale, ha stabilito il TAR. Di fianco il ritorno alla festa sul Non Sell, concerto all'Alba e chioschi nel fine settimana. In taglio alto nero-verdi, tre partenze per finanziare il mercato sono le cessioni per Perisan, Barison e Butic. Sul Messaggero Veneto, nella fotonotizia il ballottaggio di Azzano Decimo, di spalla raccolta dei rifiuti, rimossi i cassonetti in due quartieri e morto Luigino Garbo, lo scopritore dei talenti calcistici. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D parlerà del primo impianto di trasformazione in Italia, dalla lana al fertilizzante inaugurato nella sede dell'azienda agraria universitaria Servadei a Pagnacco. Alle 11.20 circa andrà in onda A Volo Radente sugli strumenti digitali a vantaggio della salute, come la carta dei servizi regionale che permette di accedere al portale Sesamo e a una serie di servizi. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. In regia Walter Vidoni, sede Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Francesca Terranova e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.